Letture di Radio 24. Da Andy Warhol a Damien Hirst, passando per Basquiat e Salvador Dalí, il nuovo libro del critico d'arte Luca Beatrice prende in esame le trasformazioni che nel corso dell'ultimo secolo hanno portato gli artisti a diventare pop star. Avvinghiati alla comoda idea tardo-romantica di artista genio e sregolatezza, uomo borderline, lunatico, perverso, violento e perfino assassino, abbiamo a malincuore dovuto assistere alla mutazione di chi, gettati i luridi panni, è passato al doppio petto del broker tipo Wall Street, munito di 24 ore ricolma di patinati cataloghi, bozze di contratti, moduli per royalties, consigli giuridici e accordi da far verificare ai vari consultants. Stando al bel libro di Luca Beatrice, Pop, l'invenzione dell'artista come star, Rizzoli editore, tutto ha inizio con un presunto fatto epocale. Proprio il maledetto Jackson Pollock, uomo isolato, spigoloso, picassiano pentito, pare avvertire la necessità di aggredire il grande pubblico, di urlare quel suo gesto di drippeggiante dolore. Da quel momento pare come prendere corpo un'accelerazione crescente, quasi la necessità di essere mondani, eccentrici per piacere, corteggiare i nuovi media, identificare il valore dell'arte col prezzo. Nasce, in sostanza, l'epoca della trasformazione dell'artista da geniale scarto della società a ingombrante e sgomitante star, volta a mimare il divismo del cinema e del rock. La storia ha una data d'inizio, 14 dicembre 1937, giorno in cui Salvador Dalí campeggia sulla copertina di Time Magazine. Il genio spagnolo ha il braccio dolente a forza di stringere mani in una New York che lo riconosce e celebra. Poco importa da lì che la critica lo consideri poco più che un artista pompier, un uomo di retroguardia. Egli detesta da par suo i cornuti della vecchia arte moderna. Abiti assurdi, conferenze provocatorie, vetrine di Bonviteller. Quello è il palcoscenico giusto. Dimenticata Parigi, la ricchezza e la fama sono di casa a New York, dove Dalí riesce anche a rivoltare la figura dell'artista. Il mito di Dalí genio oscura la sua arte. Così come si può dire di un prima e dopo i Beatles, si deve parlare dell'arte ante e post Warhol. Minuscolo provinciale in arrivo da Pittsburgh, nato Andrew Warhol Jr., nel giro di pochi anni sarà in grado di scardinare l'idea dell'opera come gesto unico, trascendentale, sacerdotale. L'opera come fatto irripetibile, profeta della ripetizione ossessiva, del rifatto, del moltiplicato. Bene sa che la fama si conquista corteggiando il regno dei divi, il pianeta del denaro, lo scintillio del glamour. Quando avevo 17 anni ho sempre pensato che sarei diventato una star. Son parole, sorta di dichiarazione poetica di Jean-Michel Basquiat, morto di droghe il 12 agosto 1988, in una bollente giornata in una Manhattan semideserta al 57 di Great John Street. Primo artista di colore a diventare famoso internazionalmente, un ragazzo destinato all'emarginazione, che insegue i miti della sua gente da Charlie Parker a Miles Davis, da Joe Louis a Cassius Clay. Egli incarna davvero la pratica dello stay pretty, die young. Basquiat, spirito ribelle, privo del senso del limite, improvvisamente ricco e famoso, amante di Madonna e di una schiera di bellezze bianche, produce forsennatamente opere cariche di violenza e di infantilismo perverso, opere che ben presto incontreranno l'interesse del tardo Warhol. La svolta verso Wall Street è l'opera magistrale di Jeff Koons, la cui filosofia suona all'incirca «I venditori sono i grandi comunicatori di oggi». Sono loro che mandano avanti l'industria automobilistica, immobiliare, pubblicitaria. Nella società odierna è lì che si sviluppa la vera moralità. Quel che conta è il potere del denaro. Alla fine degli anni Ottanta la scena si sposta in una Londra ansiosa di rivincite, una rivoluzione globale in musica, il Britpop con Blur e Oasis, in letteratura Hanif Kureishi, Irvine Welsh con Trainspotting, un vero crossover di tutta la cultura, fotografica, fashion e naturalmente l'arte. È la Londra di Charles Saatchi, geniale figura di pubblicitario, collezionista, cool hunter, che ribalta il modo di generare e diffondere arte. È l'uomo spericolato che ci vuole per Damien Hirst. Nasce la Young British Art, un gruppo di visionari dove Hirst domina per invadenza, eclettismo e naturalmente per capacità freddamente manageriali che travalicano spesso la qualità delle opere. Ecco lo squalo da 12 milioni di dollari intorno al quale si muovono squali veri come Larry Gagosian, Nicolas Serota e il manager degli hedge fund, Steve Cohen. Nati incendiari e morti pompieri, immolati sul comodo altare del business miliardario, Hearst e Company entrano presto in istituzioni più che tradizionali come la Royal Academy, con opere e gesti fatti di torbido sensazionalismo. Niente scandalo vero. L'arte, si sa, ha davvero perso ogni potere di autentica provocazione. Rimane il sensazionalismo vuoto, quello di For the Love of God, fusione in platino di un vero cranio tempestato di 8.601 brillanti per un totale di 11.006,18 carati di Damien Hirst. Maurizio Cattelan ha detto basta, ha voglia di pensionarsi, ritirarsi dalla scena, quella di genio o di impostore, trickster, ovvero buffone dell'arte italiana, intelligente osservatore della cultura mediatica, vive di gesti e non di opere d'arte. Provocazioni che provocano solo chi lo desidera, oggetti in grado di alimentare pagine di giornali, siti web attenti a seguire in una cronaca dal sapore persino rosa, le miliardarie vicende del ragazzo di provincia. Il dito, i bimbi impiccati, il papa e il meteorite. Sono altrettante fantasie da raccontare con commenti degni del Grande Fratello, liti e questioni morali. Finto normale, ipernarcisista, abile mercante di se stesso, simpatico che non vuole definirsi artista italiano, anche se dice «sono artista e sono italiano» e, aggiunge, «lo so che non è una gran definizione». Assolutamente vero. Avete ascoltato la lettura della recensione di Ugo Nespolo al libro di Luca Beatrice, Pop, l'invenzione dell'artista come star, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Dopo l'ennesima esternazione di Beppe Grillo, che auspica il ritorno del Tribunale del Popolo, Massimo Gramellini sogna che qualcuno all'interno del Movimento 5 Stelle ricordi al comico genovese che prima o poi quel tribunale giudicherebbe anche lui. Quando saremo al potere, spiega Grillo in un'intervista a 7, i politici verranno giudicati da un tribunale di cittadini incensurati estratti a sorte, che li condannerà ai lavori socialmente utili e alla restituzione del malloppo. Vedo già formarsi una ola da Bolzano a Trapani. Sorprende la moderazione del Gabibbo Barbuto. Se avesse proposto di mozzare le mani ai ladri e la lingua agli ospiti dei talk show, sarebbe stato portato in trionfo da tutti i sondaggi che chiedono agli italiani se preferiscono l'aumento della benzina o quello dello stipendio. Le persone hanno fame di capri espiatori per calmare l'ansia. Fin troppo facile blandirle con il populismo. Perciò merita rispetto la presa di distanza di Enrico Strabotti Bon, militante del Movimento 5 Stelle, sezione adulti. La crisi ha ragioni più complesse. Magari potessimo ridurla a una vicenda di guardie e ladri. Ciò detto, chi ha commesso dei reati non la passerà liscia. Ma guai se a giudicarlo fossero i tribunali del popolo. Erano già poco democratici nella democratica Atene, dominati dall'emotività e dall'odio che si porta dietro altro odio. Giacobini, nazisti, stalinisti, talebani. Non c'è epuratore che non li abbia usati per epurare, salvo esserne epurato a sua volta. Prima o poi, Beppe, quel tribunale giudicherebbe anche te. Il peggior stato di diritto è meglio della migliore giustizia popolare. Condivido Enrico Strabotti Bon, non fosse altro perché me lo sono dovuto inventare, sempre in attesa che un seguace reale di Grillo trovi la forza di ricordargli che non ci siamo liberati di un contaballe per consegnarci a un ayatollah. Avete ascoltato la lettura del Buongiorno di Massimo Gramellini, Il Codice Grillo, dalla Stampa del 31 maggio. Dopo il verdetto del Festival di Cannes si moltiplicano le accuse di conflitto di interessi nei confronti di Nanni Moretti, presidente di giuria. Evidentemente ai francesi non va proprio giù il verdetto di Cannes. E così sul web si accavallano le accuse al presidente Nanni Moretti. Conflitto di interessi. 4 dei 6 film del palmarès sono distribuiti o coprodotti da Le Pact, la stessa società, ricordano, che ha coprodotto e distribuito Habemus Papam. Senza contare che Le Pact è nata dalle ceneri di Buck Film, che in passato si era assicurata la distribuzione francese di tutti i precedenti Moretti. Anche Le Monde ha ripreso con una certa evidenza l'accusa, ricordando però altri casi di possibili conflitti. Tarantino, che nel 2004 dà la Palma d'Oro a Michael Moore per Fahrenheit, proprio quando entrambi lavorano per i fratelli Weinstein, oppure la Au Pair, che premia il nastro bianco di Haneke, che le aveva fatto vincere con La pianista il premio per la miglior attrice. Anche in Italia il Secolo XIX ha notato che il premio a reality è arrivato da un presidente che ha gli stessi produttori, Fandango e Rai Cinema di Garrone. Tutti i nipotini di Andreotti. Sappiamo che a pensar male spesso ci si azzecca, ma è anche vero che questi sedicenti conflitti di interessi sono irrisolvibili, a meno di non trovare un presidente di giuria che sia anche frate trappista. Se i premi sono meritati, come quelli di quest'anno, forse è meglio lasciar perdere, altrimenti viene il sospetto, quello sì fondato, che se non vincono, ai francesi ancora gli girano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Mereghetti «Se i francesi scoprono i conflitti di interessi» dal Corriere della Sera del 31 maggio. Il pianto in TV fa ascolto. Chi non ha sentito questa frase sulla televisione alla ricerca di storie strappalacrime per fare share? I ricercatori dell'Università dell'Ohio hanno dato peso scientifico al fenomeno, analizzando il comportamento di 361 studenti di fronte a immagini drammatiche apparse sul piccolo schermo. Risultato? Le lacrime altrui ci rendono più felici, perché fanno riaffiorare in noi sentimenti positivi. Può sembrare assurdo, ma la reazione alle tragedie degli altri è: a me non capita, sono fortunato, la mia vita non è così brutta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Piangere fa bene alla TV» dal Magazine 7 del 25 maggio.